Secondo il bilancio previsionale che è stato approvato pochi giorni fa dal Parlamento alla fine del 2017, quest'anno le spese militari arriveranno quasi a 25 miliardi di euro. Va detto che questa è la valutazione appunto che facciamo come Osservatorio Milex a partire dai 21 miliardi della difesa, del bilancio proprio della difesa, sottraendo la parte dei carabinieri non legata ad azioni militari, ma dovendo poi aggiungere il 1,3 miliardi che viene fornito dal Ministero per le Finanze per le missioni militari all'estero e soprattutto gli oltre 3,5 miliardi che il Ministero per lo Sviluppo Economico destina ad acquistare nuove armi. Ed è questo, se vogliamo, il dato più allarmante, perché la crescita è esplosa davvero negli ultimi anni per quanto riguarda i fondi a disposizione di nuovi armamenti, dell'acquisto di nuove armi. Siamo a 5,7 miliardi complessivamente in un anno. Dal 2006 a oggi questa spesa è lievitata dell'88%. Assolutamente sì, e peraltro è il motivo per cui poi sono costretti comunque a mettere molte risorse sulle missioni militari all'estero, perché siccome una gran parte della spesa militare italiana è bloccata dagli stipendi, dal fatto che ci sono ancora troppe persone sotto le armi, in particolare sono troppo squilibrate, noi diciamo sempre, lo dimostriamo con i numeri, che ci sono più comandanti che comandati, ecco, questa quota è intoccabile. Se però si mettono molti soldi a disposizione di nuovi armamenti, dell'acquisto di nuove armi, quello che ne fa le spese ovviamente è l'esercizio, cioè quello che serve per far funzionare la macchina, per far addestrare i soldati eccetera, e quindi si riceve dalla finestra quello che si è buttato fuori dalla porta, ricevendo appunto, come dicevo, 1,3 miliardi per quanto riguarda le missioni militari all'estero, che diventano quindi in un certo senso necessarie per far andare avanti la macchina delle forze armate. E dunque il sospetto è che si vada in giro per il mondo con quasi 9.000 uomini e donne anche e soprattutto come stampella per il bilancio della difesa, che sennò sarebbe squilibrato. Spesso il MISE che destina soldi sostanzialmente per armamenti, sottraendoli poi anche alle imprese. Assolutamente sì, perché negli ultimi anni abbiamo notato che tra il 70 e l'85% tutto il budget che il Ministero per lo Sviluppo Economico dovrebbe destinare alla competitività delle imprese finisce invece ad acquistare nuove armi. Veramente noi vogliamo basare la ripresa economica su una competitività di chi produce armamenti, che siano aerei, navi o elicotteri. Noi pensiamo invece che questi soldi sarebbero da mettere sulle piccole e medie imprese, quelle che davvero forniscono fatturato e posti di lavoro in Italia. Invece appunto, proprio perché la difesa in quanto ministero proprio non ha più fondi, perché non riesce a gestire i propri fondi in maniera equilibrata, si deve chiedere aiuto al Ministero per lo Sviluppo Economico. Riteniamo però che davvero stia esagerando, perché la quota che vi ho detto tra il 70, l'80, quasi il 90% in alcuni anni è inaccettabile. Sempre secondo i dati appunto del vostro rapporto, l'Italia risulta 11ª al mondo per spesa militare, prima di paesi come la Turchia e Israele, che sappiamo insomma come spesa militare ci danno dentro. Anche negli anni della spending review, dei sacrifici chiesti ai cittadini, e anche negli ultimi due governi, la spesa è aumentata. Sì, la spesa stava salendo molto fino al 2008, poi la crisi economica ha fatto scendere sicuramente gli investimenti di natura militare, ma dal 2014, in particolare dal 2015, c'è stata una ripresa non diciamo esplosiva, ma sicuramente costante, tanto è vero che ormai siamo quasi tornati, sia in termini reali che in termini di anno, all'età, quindi non a valore costante, agli stessi livelli del 2008. Certamente questo significa che c'è una sorta di protezione per i fondi militari, per i fondi destinati alla difesa, che invece vengono sottratti anche ad altri utilizzi di natura più sociale. Su questo tema, visto che siamo in campagna elettorale, faccio una domanda anche se vuoi un po' provocatoria. Si discute di alcune promesse che non sono realizzabili, però secondo i calcoli del Ministero e della Ragioneria dello Stato, ad esempio la legge Fornero sulle pensioni, come dire, la sua eliminazione comporterebbe un aggravio di spesa di 26 miliardi l'anno. Beh, insomma, se le spese militari sono 25. Chiaro che non possiamo eliminarle tutte di colpo, questo sarebbe certo il sogno di noi disarmisti, però sicuramente potrebbero avere un impatto. Il problema è che non solo non si va a tagliare quello che è il livello attuale di spese militare, ma addirittura alcuni spingono per aumentarle di molto. C'è da alcuni mesi, da alcuni anni, questo target, questa linea guida della NATO che dice che bisognerebbe arrivare al 2% del prodotto interno lordo, e ogni tanto viene rilanciato a qualche politico. Ecco, vorrei fare, come si dice, il fact checking anche a questo, perché se davvero qualcuno volesse portare l'Italia a spendere al 2% del PIL, dovrebbe trovare ogni anno 10 miliardi di euro in più almeno, secondo i nostri calcoli. Ma se anche andiamo a prendere addirittura i calcoli della NATO, che sono in un certo senso più restrittivi rispetto alle misure di spesa militare, si dovrebbero trovare quasi 15 miliardi di euro. Quando quando sentite qualcuno che dice che bisogna raggiungere quel livello NATO, che, e lo sottolineo fortemente, non ha nessuna valutazione, no, di natura tecnica, militare, cioè non è necessario per dei motivi, ma è solo messo lì tanto per alzare la spesa militare, ecco, ricordatevi che vorrebbe dire sottrarre, non solo mantenere il livello di adesso, ma sottrarre ulteriormente dei soldi. È uno scenario ancora più drammatico da un certo punto di vista. Scusa se ritorno sulla campagna elettorale, ma ravvisate formazioni, partiti che toccano questo tema? Sembra appunto vedere dalle cronache dei giornali che non ci sia più questa sensibilità. Sicuramente non è nel dibattito, non è una cosa che anche in media, e anche per questo noi invece abbiamo cercato di rilanciare il rapporto proprio in questo periodo, perché crediamo di dare un contributo. Non abbiamo ancora fatto una valutazione complessiva di questi programmi, perché siamo proprio stati negli ultimi giorni agli sgoccioli rispetto alla presentazione degli stessi. Quello sicuramente che faremo sul tema delle spese militari, non solo, penso ad esempio anche sul tema dell'export di armamenti, è proporre a tutte le compagini politiche e proporre anche a tutti i singoli candidati una serie di punti chiave secondo le nostre reti della pace del disarmo. Sicuramente dopo questa proposta avremo più possibilità anche di valutare nei programmi di coalizione, di partito o anche dei singoli candidati chi avrà avuto intenzione di mettere questi temi.